and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati, chiedo asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. No, scusa, K, prova a parlare. Ma bentornati, chiedo asilo, un saluto da K. Ma scusa, ma che voce hai? Sembri la Battestoppani. No, sto imitando, imito. Ah. Ma sei bravo. Bravo, rifacciamo, aspetta, allora. Bentornati, chiedo asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Vabbè, allora, i bambini, si sa, si scambiano spesso e volentieri insulti e prese in giro, ed è quello che succede anche tra i bambini che fanno politica. Non è una novità, parliamo spesso qui a Chiedo Asilo dei talk show politici della TV che si trasformano in fight club politici della TV. Fight club. Da talk show a fight club. Però adesso c'è internet, cioè adesso, sempre così, adesso c'è un po' di tempo che c'è internet, e i bambini politici litigano anche sui blog. L'ultimo caso è la plateale rissa scritta tra il bambino Beppe Grillo e il bambino Luigi De Magistris. No, scusa, cosa c'è di strano? Così come esiste il sesso virtuale, che poi è il sesso per iscritto, esistono anche le risse virtuali, sempre per iscritto. Sì, ho capito. Ma tutte e due le cose per iscritto non danno lo stesso piacere che dal vero. Mi inquieti un bravo, come cambia, al volo. Sai com'è? Sembri un po' indemoniato. Nel caso delle risse virtuali, però, K, si evitano almeno gli urlacci, le interruzioni moleste, gli occhi sgranati e tutto quel campionario di maleducazione che viene esibito in questi casi, no? Tutto si svolge nel silenzio assoluto in fatto di decibel, ma no? Cosa ne sai tu di decibel? È tutto scritto nero su bianco online. Di errori ne ho commessi molti e purtroppo ne commetterò altri. Uno dei più imbarazzanti è stato Luigi De Magistris, eurodeputato grazie anche ai voti del blog. Adesso si comporta come Berlusconi. Ecco, dice il bambino Beppe alternando due voci. Invito Grillo a stare più tra il popolo e un po' meno in pantofole nelle sue abitazioni di lusso. Che ho avuto l'onore di frequentare e che ben conosco. Risponde pacatamente il bambino Luigi. Allora il bambino Beppe mette online una finta pubblicità elettorale con la foto del bambino Luigi e la scritta «Comprereste un voto usato da quest'uomo?» e così via. Capito? Ma una volta non erano Pappa e Ciccia questi due? Ma scusa, ma allora sei proprio esorcista, bisogna chiamare un esorcista. No, capito, è una tecnica come quella di Demetrio Stratos. Anche quella dei mongoli. Esatto. Vabbè, comunque dai, sai com'è tra bambini, basta anche poco e ci si manda subito a quel paese. Però resta la domanda, se uno deve mandarsi a quel paese, che ci azzeccano internet e i blog? Non è meglio prendere il telefono e parlarsi direttamente e soprattutto privatamente? È sul privatamente che sei ottimista. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Ecco qua, K, ti piace questo? Ma bello, ma cos'è? Il manifesto dei diritti alimentari dei bambini. È un decalogo di nove punti. Già qui l'hanno fatto quelli dell'associazione Bambini in Cucina in collaborazione con il sito www.milanoperibambini.it. Sono cose molto importanti. Molto importanti. Ma anche il significato, insomma, i messaggi sono importanti. Sì, questo è per diffondere un approccio all'educazione alimentare. Aspetta. Perché voglio fare un blues di questa roba. Vabbè, leggi i punti di questo manifesto. Allora, tu fai punto numero uno. Ok. Sembra la sigla di Chiedo Asilo, ma uguale, in realtà ma il blues no, è il manifesto uguale, dei diritti alimentari dei bambini. Punto numero uno. Il diritto a un pasto sano. Punto numero due. Il diritto alla convivialità. Punto numero tre. Il diritto a un ampio ventaglio alimentare. Punto numero quattro. Il diritto di accesso alla cultura del cibo. Punto numero cinque. Il diritto a una cucina sicura in termini di arredi, di utensili, di metodi di cottura e di conservazione degli alimenti. Punto numero 6. Perché quello era il punto più importante, il numero 5. Comunque andiamo avanti, hai detto numero 6. Il diritto ad imparare a cucinare. Vabbè. Punto numero 7. Il diritto ad avere guide responsabili. Punto numero 8. Il diritto al rispetto delle differenze. Punto numero 9. Il diritto a informazioni veritiere sul cibo. Il diritto questo cibo. Il diritto a informazioni veritiere sul cibo sia da parte della famiglia sia da parte delle aziende che producono e distribuiscono alimenti destinati ai bambini, tipo i finocchi cotti. Hai capito? Questo è il decalogo in 9 punti che servirà ai bambini per cosa? A niente, nemmeno a evitare di mangiare i finocchi cotti. E quindi perché l'ha fatto? nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù, chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane, ma il cuoco in vacanza c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Cappa, tu lo sai cos'è il fantacalcio? No, non so nemmeno cos'è il calcio, Drago, figurati il fantacalcio. Ma dai, sulla Gazzetta ci sono sempre due pagine cos'è fisse. Cos'è la Gazzetta? Vabbè, dai, tu saresti il paladino dei bambini. Io dovrei essere quello che critica l'infantilismo e tu quello che invece ci sguazzi. Sì, vabbè, ma non per quanto riguarda il calcio. Fatemi una ragione, sul calcio sono sempre stato scettico, sempre lo sarò, dai. Anche sul fantacalcio. Sì, scusa, come si fa a essere scettici sul calcio? O ti diverte o non ti diverte. Ma non sono è due... così semplice, come non no? È bianco, nero, giusto, sbagliato. Certo. No, così. Yin e Yang, bisogna rifletterci sulle cose, capito? Hai ragione, però voglio dire, che tipo di riflessioni vogliamo fare sul calcio? Non so, scusa. Tipo che i giocatori sono troppo pagati, che negli stadi c'è troppa tepaglia, che la gente si ammazza, prima si rincretinisce, poi si accoltella anche davanti alla TV, si TV accoltella. Lo stadio o la TV? Vabbè, non lo so, vabbè. Il calcio... Comunque mi sembra al solito così minestrone di cose che dicono tutti quelli che non amano il calcio, per non dire che non amano il calcio, dicono sempre che ci sono delle ragioni profonde, eccetera, invece secondo me semplicemente il calcio a te non piace. Ma non è, ma vedi, non puoi semplificare, non è piacere o non piacere. Non ti il fatto piace è il calcio, che la società non sono sane economicamente, adesso, no, del calcio. C'entra? E visto che noi lavoriamo per questa radio News and Talk, paladina del bilancio perfetto, tutte certo, le revisioni, tutto perfetto, tutte le mutande, tutto perfetto. Come mutande? Le mutande, se vai a vedere in giro, le mutande è vero, sono giù, perché se poi vai a finire all'ospedale, giustamente, va bene, non dai. Non puoi sapere, tu non sei si lì può mai che sei in bar, non e so se anche nella borsa, crollano le tue azioni, ti viene un coccolone, ti portano all'ospedale, devi avere le mutande in ordine. È più importante. Tanto avere il bilancio in ordine, forse, comunque, se sei in borsa. Non è, però vabbè, non è, dai. Non bisogna apprezzare il calcio, perché non è coerente con la dimensione in cui ci troviamo. La radio, il calcio, vabbè, è ma cosa c'è? Roba, se tu sei, palimento, voglio dire, se tu sei tifoso e ti diverti a guardare le partite della tua squadra, mica pensi ai bilanci. Cioè, secondo me, semplicemente, lasciatelo dire, a te non piace il calcio, non è mica una vergogna, ma non ci piace. C'è la SLA, ma dove cosa? La mettiamo la SLA? Il doping, i dottori compiacenti, sì, le scommesse, ma vabbè, e poi, le partite truccate, la stupidità dei commentatori televisivi, soprattutto quelli nuovi, quelli di nuova generazione, sai, quelli fanno golazo, sa 30 anni che fanno così, vabbè, 30 anni che fanno, io per 30 anni meno male che non li ho sentiti, insomma, cerchiamo di staccarci da queste cose. Forse, guarda, alla fine, forse semplicemente a me non piace il calcio. No, ho detto calcio. Il fantacalcio, K, invece, è proprio una cosa da bambini di 10 anni. Quindi allora, dobbiamo parlarne qui a Chiedo Asilo. 10 anni. No, adesso però, io no, non... È interessante, perché quando vedi sulla Gazzetta chi sono i campioni di fantacalcio, sono tutti adulti. Ma non adulti tipo 20 anni, adulti tipo 35-40 anni. Sai che è inutile che insisti, perché io alla fine non so neanche bene di cosa stai parlando. Allora, fantacalcio. Allora, cioè, in pratica, tu fai una campagna acquisti all'inizio e prendi una rosa di giocatori. Poi guardi i voti che i tuoi giocatori ricevono sui giornali del lunedì, fai una media e vedi quanti punti hai totalizzato con la tua squadra, hai capito? Ma è facile! Ma ti ho detto che non mi interessa io senza... Cazzo! Riesco a vivere benissimo. Sei tu che non ce la fai. Tu e altri come te, come la bambina Clerici. Che voglio dire, io non posso vivere senza calcio. E oggi una novità, perché è arrivata una quartina, non da una persona, ma da uno strumento musicale, un ukulele che vuole dire la sua. Presto, forza, andiamo! Chiedo asilo.